Buon anno, lei è il nostro primo ascoltatore del 2015 di Cuore e Denari, è contento? Buon anno a tutti. Sul podio come secondo ascoltatore di Cuore e Denari del 2015, benvenuto Marino. Buongiorno a lei, grazie, medaglia d'argento, sono felice. È felice. Lino da Catanzaro, buongiorno. Medaglia di bronzo di Cuore e Denari 2015. Buongiorno, buongiorno. Una medaglia sudatissima comunque in attesa. Lo so, sa com'è. E Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, naturalmente anche Cuore e Denari vuole dedicare con qualche nota in apertura un ricordo a questo personaggio straordinario della musica italiana. Pino Daniele è improvvisamente scomparso questa notte, lo avete sentito in tutti i giornali radio, colpisce ancora una volta la modalità della sua scomparsa, come è accaduto per Mango proprio pochissime settimane fa. Anche in questo caso un cuore che cede in un'età relativamente giovane, certamente un argomento che rappresenta uno spunto di riflessione e di approfondimento anche per Cuore e Denari, che tornerà sicuramente al più presto a parlare della salute del nostro cuore. Lo faremo naturalmente anche ricordando Pino Daniele quando riprenderemo con la formazione al completo e tornerà ai microfoni anche la nostra Nicoletta Carbone. Quindi nuovo saluto a Pino Daniele. Ora veniamo ai temi di Cuore e Denari di questa mattina. Stufa calda, il calore è tutto, bisognerebbe stringersi di brutto, solo il contatto rende chiaro proprio tutto quanto. Chissà se state già posizionando le calze della Befana che arriverà stanotte, se le state appendendo come da tradizione sul caminetto, se ne avete uno. In alternativa ci si potrà accontentare del termosifone, molto meno romantico, certo, o chissà, per stare sull'attualità come piace fare a noi di Cuore e Denari, su una bella stufa pellet, un combustibile che più di attualità non si può, visto che è proprio il protagonista di uno degli aumenti più contestati di questo 2015. Con l'arrivo dell'anno nuovo, infatti, è passata dal 10 al 22%, quindi insomma un discreto aumento secco dell'IVA. Appunto, c'è stato questo aumento all'IVA applicata sul pellet, il combustibile ricavato da segatura, che è stato scelto da molti naturalmente con l'obiettivo di risparmiare un po' e che adesso rischia di essere appunto questo risparmio vanificato. Oggi approfondiremo la questione. Allora, voi intanto iniziate a dirci se avete una stufa pellet per la casa in cui abitate, magari per la seconda casina in montagna. Perché avevate scelto questo sistema e quanto spendevate? Se avete già fatto una quantificazione di quanto vi verrà a costare in più un approvvigionamento di pellet appunto per alimentare la vostra caldaia con l'aumento dell'IVA di cui abbiamo appena detto. 800 24 00 24, numero verde per iniziare a prenotare i vostri interventi. E a proposito di calze della Befana, in questa vigilia di Epifania non potevamo non dedicare uno spazio alle prelibatezze tanto attese di cui le nostre calze vengono riempite. Iniziate a raccontarci all'800 24 00 24 se preparerete una calza magari per i vostri figli o i nipotini, cosa ci metterete dentro. Nella seconda parte del nostro programma, dopo il GR delle 12, prepareremo insieme a voi una calza della Befana alla Cuore e Denari che unisca ingredienti genuini, stando però attenti al portafoglio, ma anche, perché no, un po' alla gola. Leopold? Sì, signor commissario. Da domani fammi accendere la stufa, Va bene, signor commissario. E fai mettere carbone e legna qui nel cassone. Bisognerà che mi facciate il buono per l'amministrazione. Ma quando qua ci vuole il buono per il carbone? Eh già, Il nuovo economo dice che siccome hanno messo i termosifoni non c'è ragione di accendere le stufe. Ma di che le venga a dire a me queste cose il tuo economo? Me ne infischio dei suoi termosifoni. Io voglio la mia stufa. Sono 20 anni che me la porto dietro. Voglio vedere il fuoco io. Oh. E chissà quanti di voi, come il commissario Maigret, amano riscaldarsi con una bella stufa. Una stufa che però negli ultimi anni hanno scelto di alimentare con il pellet. Nelle ultime settimane noi ci siamo accorti di una piccola, ma non tanto piccola in verità, polemica che stavano sollevando proprio i nostri ascoltatori, quelli particolarmente interattivi con i nostri programmi, quelli che tra di voi ci scrivono molto e ci segnalano cose che non vanno, disfunzioni, disservizi, malesseri di vario genere. Ebbene, nelle settimane in cui si discuteva della legge di stabilità se n'era accorto proprio Sebastiano Barisoni durante Focus Economia, molti di voi ci segnalavano che il governo stava decidendo per un piccolo intervento fiscale, in apparenza di poco significato, ma che invece sta avendo, a quanto pare, un impatto molto rilevante per molte famiglie. Stiamo parlando, appunto, lo dicevamo nelle anticipazioni, dell'aumento dal 10 al 22% dell'IVA applicata sul pellet, vale a dire il combustibile ricavato da segatura. Abbiamo ritenuto dunque che fosse proprio un tema di cuore e denari, un tema da affrontare rapidamente per capire quante famiglie usano questo tipo di riscaldamento per la propria abitazione, che tipo di vantaggi dà, che cosa cambia dal 1 gennaio per la spesa degli utilizzatori di questo combustibile che tra l'altro viene considerato particolarmente rispettoso per l'ambiente. Che calcolo di convenienza dovranno fare ora coloro che stavano magari programmando un investimento di questo tipo? Sarà ancora più conveniente rispetto per esempio al gas o ad altre forme di alimentazione più note? Con noi stamattina per spiegarci bene i termini della questione due ospiti che salutiamo. Pieraldo Isolani, responsabile settore energia dell'Unione Nazionale Consumatori. Buongiorno e buon anno, Isolani. Buongiorno e buon anno a tutti voi. Grazie altrettanto naturalmente e ringrazio e saluto e naturalmente gli faccio gli auguri di buon anno anche a Franco Pozzoni, vicepresidente nazionale CNA Installatori. Benvenuto. Buon anno e buongiorno a tutti. Eccoci qua. 800 24 00 24, raccontateci se avete una stufa pellet, perché l'avete scelta, se era conveniente, se avevate quantificato un risparmio paragonando questo sistema agli altri combustibili. Faremo i conti insieme e capiremo cosa cambia con le novità fiscali arrivate proprio giovedì scorso con l'anno nuovo. E visto che in tanti ci avete manifestato il vostro disappunto in questi giorni su questa novità, oggi potete dare davvero sfogo libero a tutte le vostre considerazioni, intervenendo in diretta se volete oppure anche scrivendoci al 349-238-6666 o su Facebook come avete già fatto da qualche giorno o anche su Twitter. Peraltro, magari Pozzoni, inizio con lei con un commento su questo. Dobbiamo dire che stiamo parlando di un mercato che non è tanto di nicchia come potrebbe pensare chi non conosce questo tipo di riscaldamento, no? Perché parliamo in realtà di un mercato in forte crescita che adesso magari potrebbe anche rischiare di essere compromessa. Do qualche numero: l'Italia, con i suoi 3,3 milioni di tonnellate di pellet bruciati all'anno, rappresenta il primo consumatore in Europa. In pochi anni sono state installate 2 milioni di termostufe usate sia per il riscaldamento degli ambienti che per avere a disposizione acqua calda, e dunque in Italia oltre 2 milioni di famiglie usano il pellet per il riscaldamento. E c'è uno studio pubblicato sul sito di qualenergia.it che ha dimostrato di recente che i maggiori consumatori sono i ceti meno abbienti, e questa ricerca avrebbe anche registrato il consumo maggiore nei comuni di montagna fino a 50.000 abitanti. Pozzoni, quindi appunto ribadiamo un mercato di non certo trascurabile importanza, direi. No, direi che è un mercato che sta avendo la sua evoluzione in questo periodo, anche perché praticamente si sta cercando di essere più autonomi possibile nel riscaldamento dei propri ambienti, quindi e di non essere dipendenti da fonti fossili, combustibili fossili, che potrebbe essere il gasolio in locali, in zone dove non arriva il metano, o il metano praticamente che diventa anche il combustibile e teoricamente più ecologico, ma non certamente ecologico come il pellet. Certo, quindi se dovesse descrivere un po' il profilo del consumatore o della famiglia che installa il pellet e usa questo tipo appunto di combustione, lo fa per risparmiare, Pozzoni? E le chiedo anche, in qualità di tecnico, per riscaldare una casa media abitata da una famiglia media, quanto ne serve? Allora, diciamo che l'installazione della termostufa, praticamente termostufa che praticamente funziona a pellet, dobbiamo valutare bene l'installazione e la potenzialità per i locali, perché praticamente non possiamo pensare di andare a installare una caldaia di grossa potenzialità per scaldare ambienti molto ampi, riusciamo a scaldare ambienti molto piccoli con la termostufa. Se poi andiamo a collegare a questo con un impianto, praticamente all'impianto di riscaldamento esistente, allora possiamo fare qualcosa di più serio. Certamente questi sono impianti che vengono fatti, come diceva lei prima, da gente che economicamente magari cerca di fare un risparmio economico, perché praticamente può gestire meglio il suo consumo di combustibile. E quindi praticamente poi ci sono, però praticamente sta venendo avanti anche molte richieste e molte aziende stanno inserendo nei loro cataloghi le caldaie a pellet, praticamente proprio in sostituzione alle caldaie a metano o le caldaie a gasolio. E insomma, a, come dire, a pensar male non si fa mai danno, diciamo che forse è l'esecutivo, il governo, che ha sempre costantemente, soprattutto in questo periodo, la necessità di fare cassa, ha probabilmente anche notato che questo mercato stava crescendo e chiaramente ne ha voluto trarre immediatamente profitto. Così siamo un po' maliziosi, ma penso che proprio non ci sbagliamo neanche di un po'. Un'altra domanda, sempre da tecnico, Pozzoni, poi andiamo alle associazioni dei consumatori. Per alimentare, ho capito che da d'ora in avanti la possiamo chiamare non più caldaia a pellet ma magari termostufa, come ci ha insegnato lei. Quanto che ammontare, che quantità di pellet serve appunto per magari scaldare un'abitazione in un periodo come questo, in cui peraltro le temperature sono anche non freddissime? Abbiamo avuto qualche giorno di gelo, insomma, a cavallo tra Natale e Capodanno, ma già ieri a Milano erano 18 gradi, quindi lasciamo perdere, magari ieri era anche tutto spento. Diciamo che ieri a Milano si stava molto bene. Molto bene, però insomma era... Sono un brianzolo, quindi sono poco distante da Milano. Era certamente un'eccezione, ieri sembrava primavera, ma ammettendo che le temperature fossero state quelle tipicamente stagionali, appunto, quanto pellet ci vuole per mantenere un'accensione normale in un'abitazione di una termostufa, appunto tanto per quantificare poi effettivamente l'impatto di questo aumento dell'IVA? Poi faremo due conti anche nelle tasche delle famiglie. Ma diciamo che sappiamo che il pellet è distribuito in sacchi da 15 kg, poi il costo del pellet varia, ha una variabilità che praticamente varia in funzione della qualità del pellet. Ah. E quindi praticamente se io vado a prendere un pellet di bassa qualità e praticamente però avrò maggior consumo di pellet, perché praticamente la bassa qualità non dà maggior rendimento. Quindi praticamente però il pellet a sacco ha un costo che si aggira tra i 4,40 euro e 5 euro circa. Direi che per un appartamento intorno agli 80 metri quadri, quindi con una caldaietta, una stufa, una termostufa dai 7 agli 8 kilowatt, direi che un sacco al giorno quindi è fino esuberante. Fin troppo un po' meno, insomma, l'80% di un sacco, facciamo un sacco per sé, diciamo che una famiglia media può scaldarsi con 4-5 euro al giorno. Allora, quindi 4-5 euro al giorno ai prezzi attuali, chiaramente con l'IVA al 10%, con l'IVA al 22%, questi 4-5 euro al giorno potrebbero diventare circa quanto diventano 6, adesso facciamo appunto un conto rapido. Pieraldo Isolani, le associazioni dei consumatori, alcune concorrenti alla vostra, hanno definito intollerabile questo aumento dell'IVA. Allora ci aiuti lei, se lo avete fatto, questo aggravio, questo calcolo dell'aggravio che arriverà nelle tasche degli italiani per questo aumento. Secondo lei comprometterà un pochino le scelte delle famiglie che magari erano orientate ad un tipo di combustione come questa, oppure abbiamo anche capito, come ci spiegava prima Pozzoni, che magari in certe località che non sono raggiunte da altri tipi di alimentazione, appunto, chiaramente devono per forza di cose utilizzare la termostufa, a parte appunto chi ha una scelta obbligata. Secondo lei chi stava facendo una valutazione anche di carattere ambientale a questo punto, alla luce dei nuovi costi, secondo lei cambierà di nuovo idea? Dunque, io vorrei dire che si tratta di una scelta sciagurata. Ah, ecco. Perché contro i consumatori E questo è chiaro, insomma, ma soprattutto è contro l'ambiente e l'occupazione. Perché contro l'ambiente? Perché i pellet sono un combustibile ecologico, in quanto le CO2 che emettono mentre si bruciano è il CO2 che la pianta ha incamerato mentre cresceva, quindi è a emissione effetto serra zero. Poi è contro l'occupazione, perché lo sviluppo delle termostufe è fatto a favore dell'industria italiana. Noi siamo molto, molto bravi, abbiamo una filiera industriale in questo settore molto valida, che così avrà uno stop. Quindi andrà in crisi, perché questo sviluppo provocava occupazione e dava lavoro. Secondo, contro i consumatori, perché noi abbiamo calcolato che a parità di potere calorico con il gas i pellet costano intorno al 25-27% in meno. Quindi l'aumento del 10-12% del 12% dell'IVA riduce il vantaggio intorno al 10% rispetto al gas. Ora, siccome però la gestione di una termostufa è un pochino più complicata dal punto di vista della manutenzione di una caldaia a gas, perché bisogna ripulire la canna fumaria, bisogna tirar via le ceneri, c'è un sistema di alimentazione che va sempre controllato, eccetera, sicuramente ci sarà una si smetterà di sviluppare questo settore. E allora, quindi ricadute di vario tipo, certo. A installare le termostufe. A parte questo che è un problema gravissimo. È una scelta che è stata fatta a favore dei produttori di gas. Ah, quindi lei dice, insomma, che c'è anche un'altra scelta sottostante a quella di aumentare la tassazione sul pellet, che è quella di evidentemente supportare produttori in altri campi. Detto questo, appunto, prendiamo atto delle sue osservazioni e prendiamo atto anche di quello che ci raccontano gli ascoltatori. Alessandra fa subito il calcolo, prendendo a spunto naturalmente quello che succede in casa sua. Noi abbiamo una caldaia a pellet scelta perché qui in collina non arriva il gas. L'alternativa era il GPL. Ci vogliono circa 7 bancali l'anno, 50 centesimi di aumento a sacco per 60 sacchi a bancale, fanno un aumento di 33 euro a bancale, per 7 fanno 231 euro annui. Alessandra definisce un'altra piccola patrimoniale. Un consumo di un sacco al giorno al costo di 4-5 euro, appunto, ci ribadisce un ascoltatore e quindi in sostanza ci dà la cifra che abbiamo indicato anche noi. Direi, prima di continuare il nostro commento con Pozzoni e Isolani, di sentire anche quello che ha da raccontarci Jordan da Modena all'800240024. Jordan, benvenuto. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, buon anno. Grazie, ci avete proprio invitato voi a farla, Jordan, perché in tantissimi ci stavate scrivendo su questo argomento, sul quale anche io mi sto cimentando per la prima volta, perché non conoscevo proprio bene la dinamica di questo mercato. Quindi lei ci dica un po'. Sono stato uno dei primi pionieri verso il pellet, perché da come è uscito io ho subito voluto provare e mi sono subito trovato molto bene, anche perché è un caldo molto simile alla legna, sono calorie molto diverse, un caldo più asciutto, più sano, fa meglio la casa, fa meglio le persone, fa meglio tutto. Tanto che ho montato una termostufa che mi scalda tutto, che mi fa da riscaldamento all'abitazione, e in più ho installato un accumulatore di acqua calda per i sanitari, in modo da sfruttare il caldo dei termo in eccesso per fare acqua calda ai sanitari. Quanto spende per il consumo di questa termostufa, Jordan? Quindi quanti sacchi di pellet al giorno in questo periodo naturalmente deve utilizzare? Noi abitiamo in collina, quindi abbiamo avuto le punte anche di meno 8, meno 9 gradi in questi giorni, e siamo nell'ordine dei 35-40 kg, 2,5 sacchi all'incirca al giorno, nelle 24 ore, per avere una temperatura all'incirca di 20-21 gradi in casa, certo, e quindi una temperatura sanitaria sui 60 gradi. Siamo quindi ad una spesa, fino a questo momento, 2 sacchi, 2,5 sacchi, 10 euro le vanno tutti. Sì, anche 12. 10-12 euro. Ho fatto i calcoli all'anno, che comunque ovviamente per aver caldo in casa i soldi vogliono spesi, non si riesce a fare caldo gratuitamente. No, certo. Però si spendeva giusto quel 12-13% in meno rispetto al gas, che facevano comodo nel bilancio annuo. Esatto. Visto che comunque l'inverno è fatto da tante altre spese, proprio IMU, ASI, il pattume, tutta roba, esatto, del genere. Il pattume. Con questo aumento dell'IVA non si recupera più niente. Anche esatto, si spendono, Giorno, e forse di più, perché addirittura si spende un pochino di più. Pellet, tra l'altro le posso chiedere il pellet doveva comprarlo? Ci sono dei rivenditori, allora, specializzati? Io il pellet non mi fido delle certificazioni europee, in quanto il pellet italiano in Europa non può essere venduto perché hanno preso a mano tutti i tedeschi. I tedeschi certificano tutto, quindi pellet polacco, di Chernobyl, eccetera, eccetera. Io lo prendo esclusivamente in Italia, anche perché qui in zona Modena ci sono due o tre piccoli produttori che raccolgono le potature, raccolgono comunque, hanno una filiera controllabile, molto controllabile, costa all'incirca 4,80-5 euro a sacco, roba molto buona, e per di più non usano resine o resine sintetiche per compattare il pallet. È un procedimento molto naturale. E quindi, insomma, lei davvero si è specializzato moltissimo. Jordan, le facciamo i nostri complimenti, e magari con le sue indicazioni ha aiutato anche qualche altro ascoltatore ad orientarsi un po' meglio in questo territorio che non è semplice. Grazie molte per essere stato con noi. Parlava del prodotto, della qualità del prodotto italiano diversa, Pozzoni, rispetto a quelli stranieri. C'è un ascoltatore che ci scrive: alcuni conoscenti mi hanno detto che a questo punto lo andranno ad acquistare dall'Austria. Si potrebbe scatenare anche questa ennesima conseguenza, no? Rispetto a questa novità fiscale, quindi non più neanche l'acquisto presso produttori italiani di pellet, ma si va all'estero, con anche i rischi che indicava l'ascoltatore, di prodotti di qualità diversa, se noi non ne sappiamo neanche leggere, perché andiamo ad immaginare di leggere l'etichetta su un prodotto acquistato in Austria. Che dice Pozzoni? Diciamo che io, contraddicendo un po' chi mi ha preceduto, le certificazioni hanno sempre una loro valenza, che sulla qualità del prodotto, perché poi il prodotto praticamente si può anche valutare noi direttamente verificando l'umidità incontenuta e le ceneri. Se noi acquistiamo un prodotto certificato N+ A1, vediamo che anche le ceneri nella stufa sono molto limitate, quindi praticamente abbiamo un prodotto valido. Io direi che sono favorevole a quello che ha detto chi mi ha preceduto, di fare anche quello dei consumatori il discorso della produzione nazionale, perché praticamente potremmo dare praticamente lavoro ai nostri disoccupati che abbiamo attualmente, perché praticamente potremmo creare delle filiere di produzione molto interessanti. Potremmo andare a ripulire anche quei boschi che praticamente ci creano elevati danni poi quando ci sono le calamità naturali, e quindi praticamente avremo anche un vantaggio da quella parte, e potremmo evitare di fare aumentare la fiscalizzazione. Diciamo che però, posso dire un'altra cosa? Certo, tanto abbiamo tutto il tempo. La fiscalizzazione è stata parimetrata praticamente al gasolio e al metano. E diciamo che c'è stato anche un tentativo di rendere la tassazione italiana omogenea a quella del resto d'Europa, anche se poi in realtà abbiamo capito che delle differenze permangono, e che forse quella italiana è diventata a questo punto la più alta a livello europeo. Cuore e denari. La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte. E la notte dell'Epifania si avvicina, state preparando la calza della Befana, oltre che naturalmente quella che la Befana stessa metterà sui nostri camini. Aspettate ancora mezz'ora se potete, perché noi oggi vogliamo darvi qualche consiglio alla Cuore Denari per decidere cosa mettere dentro a questa calza, che naturalmente dovrà essere tutta bella colorata e ad hoc per questa nottata speciale. Voi iniziate a condividere con noi il contenuto che stavate già immaginando e ipotizzando all'800240024 e noi lo commenteremo con la nostra ospite tra non molto, dopo il GR delle 12. Prepareremo insieme una calza alla Befana, una calza della Befana alla Cuore Denari, che unisca ingredienti genuini ed economici, qualche dolcetto ma tra quelli permessi. Se invece la vostra Befana pensate porterà tanto carbone, allora diteli di cambiare combustibile, perché per quest'anno in tanti preferirebbero fare un po' di scorta di pellet, che nel 2015 è diventato più caro. Continuiamo a parlarne appunto con la nostra pagina di Denari. L'inverno, il sole stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Neanche tanto freddo tra ieri e oggi, noi intanto però proviamo a riscaldarci un po', quantomeno ci siamo riscaldati negli animi con il tema che abbiamo scelto per questa puntata di Cuore e Denari. Ci stiamo riscaldando con Pieraldo Isolani, responsabile settore energia dell'Unione Nazionale Consumatori, e con Franco Pozzoni, vicepresidente nazionale CNA Installatori. Il tema è la termostufa, la stufa a pellet, e la decisione del governo di aumentare l'IVA su questo, tra virgolette mi viene da dire, carburante, comunque questa modalità appunto per alimentare la stufa a pellet, che è il pellet stesso che deriva dalla segatura. Insomma, su un sacchetto di pellet adesso è aumentata l'IVA dal 10 al 22%, e voi in tantissimi ci state chiamando all'800240024 per esprimerci tutte le vostre considerazioni e farci anche delle domande su questo argomento. Allora direi di sentire, prima di riprendere il nostro giro tra Pozzoni e Isolani, un paio di ascoltatori. Vincenzo da Trento, benvenuto. Vincenzo, buongiorno, salve, eccoci a tutti. Ecco, mi sente? Sì, certo, benissimo, grazie. Ecco. Allora, premetto che io la stufa a pellet non ce l'ho. Pensavo di installarla quest'anno, però visto insomma gli sviluppi che ci sono stati, avrò da ripensarci. La mia domanda è molto semplice. Il governo ha aumentato l'IVA al 22%. Sì. E fin qua tutto bene, cioè bene fino a un certo punto. E nel decreto, cioè nella legge fatta l'anno scorso sulla legge di stabilità, si prevede la salvaguardia dell'aumento dell'IVA dal 22 al 25,5%. Sì. Quindi la mia domanda è questa: rischiamo che magari nel giro di un anno l'IVA sul pellets aumenti dal 10 al 25,5%? Sul pellet e anche su tanti altri prodotti, perché c'è proprio, come dire, la previsione potenziale di un aumento generalizzato dell'IVA, Vincenzo, perché è una misura contemplata nelle cosiddette clausole di salvaguardia, e adesso io la dico in maniera molto banale perché non voglio neanche scocciare stamattina gli ascoltatori con questo argomento, magari a Focus Economia ne approfitteremo per tornarci. Il tema è che se non si raggiungono determinati obiettivi contenuti nella legge di stabilità, il governo appunto deve per forza di cose aumentare le entrate fiscali anche attraverso questa. Ha sterilizzato quantomeno quella sulle accise Matteo Renzi per quest'anno, e ne approfitto per ricordare che ne parleremo probabilmente domani a Cuore Denari, rifaremo un po' il punto su carburanti per viaggiare, trasporti, l'aumento delle tariffe autostradali, tutto ciò che riguarda i nostri cittadini che viaggiano. Quindi domani magari faremo un punto sulle accise, il cui aumento dovrebbe essere quest'anno teoricamente congelato. Per il resto appunto nelle clausole di salvaguardia è contemplata la possibilità che l'IVA aumenti fino al 25%, e quindi Vincenzo dice: ma insomma, se andiamo avanti così, chi farà un investimento di questo genere? Non è d'accordo con le visioni che stiamo offrendo questa mattina un altro ascoltatore, Matteo da Città di Castello, un rivenditore di stufe a pellet. Matteo, ci dica un po' cosa sta succedendo nel suo negozio in questi giorni. Benvenuto intanto e buon anno. Sì, buongiorno, intanto buon anno anche a voi. Sì, io sono sia installatore che rivenditore di stufa pellet, caldaia pellet, ma anche di pellet stesso. Mm-hmm. Sì, e purtroppo, nel senso, c'è da fare un piccolo punto dell'atteggiamento dei nostri governi, gli ultimi governi nei confronti delle rinnovabili, prima col fotovoltaico, ora con il pellet, non è mai stato un atteggiamento molto coerente, diciamo, quantomeno, no? Sì, infatti, insomma, andiamo sempre un po' controcorrente, molto controcorrente rispetto anche magari a Germania, altri paesi in cui invece puntano su biomasse rinnovabili. Comunque sia, quello che, insomma, mi sentivo di intervenire perché volevo un attimo consigliare magari anche a chi installa, magari qualche cliente che installa stufe o che ha già installato, magari di essere un po' magari previdente, perché il pellet ovviamente ha un prezzo che è stagionale, ovviamente non è un prezzo fisso per tutto l'anno. Quindi naturalmente in questo periodo costa un po' di più, se noi facessimo una scorta ad agosto, ecco. Certo, no, anche prima, magari in primavera normalmente scende quasi di un euro a sacchetto. Ma non si deteriora, Matteo, la qualità rimane alterata? Se io compro 18.000 sacchetti e li metto in garage, non è che ne so che prendono l'umidità o si rovina? Ovviamente bisogna essere accorti, magari tenerli un attimino in posti asciutti, però rimane sempre all'interno di un magazzino, anche se sta all'interno di un'azienda, quindi cambia poco se metterlo magari dentro un garage o lasciarlo dentro certo. un magazzino. Matteo, però senta, ma le stanno chiedendo, grazie intanto per questi suggerimenti molto, molto concreti, questa mattina sto imparando tante cose nuove, ma le stanno chiedendo qualche informazione su questo aumento in questo periodo? Come la stanno affrontando gli utilizzatori della termostufa? Guardi, noi grazie a Dio abbiamo continuato a venderle anche proprio sotto queste feste, perché tante persone, noi viviamo su una zona abbastanza, insomma, metanizzata, però ci sono tante case in campagna in cui ancora vivono con il GPL o il gasolio, quindi lì ci sono praticamente grandi risparmi nonostante l'aumento dell'IVA. E sì, l'atteggiamento è quello di rabbia nei confronti un po' del governo, perché è come appunto un'ennesima accisa, come presa come fosse un'ennesima accisa magari sulla benzina o su qualcosa di consumo, insomma, quindi l'atteggiamento è quello un po' restio nei confronti del governo, però non sono proprio tanto scoraggiati, perché i risparmi ci sono ugualmente. Come dicevo, se noi ad esempio facciamo un servizio nei confronti dei clienti di stoccare noi anche il pellet all'interno dei nostri magazzini e li facciamo prendere man mano, in maniera tale che riusciamo magari a fargli bloccare il prezzo nel periodo migliore, e teniamo tante volte anche noi proprio il pellet a magazzino nostro, in maniera tale che i clienti poi vengano a riprenderlo quando ne hanno bisogno. Matteo, guardi, la ringrazio per l'atteggiamento soprattutto molto pragmatico rispetto a questa novità. Quindi Pieraldo Isolani, le chiedo un commento, ha sentito questo ascoltatore, no? Ha fatto proprio un po' come un buon presidente di un'associazione dei consumatori. Sì, vabbè, è successo, contestiamolo in ogni modo questa novità fiscale, perché è giusto che lo si faccia, però intanto bisogna anche affrontarlo. Allora facciamo una bella lista di raccomandazioni concrete per poter gestire al meglio questo inasprimento fiscale. Direi che da domani anche voi potete prendere a spunto tutti i punti dati da Matteo per fare una bella lista a favore di tutti i vostri associati. Che ne dice Isolani? Dunque, sicuramente, infatti io quando vedo l'intervista preparerò una nota per i nostri uffici. Allora, il consiglio di fare la scorta e comprare il pellet quando costa meno in primavera è una cosa molto importante. Comunque è anche da dire che il pellet diventa meno conveniente rispetto al gas, ma laddove si riscaldava con il GPL o con il gasolio, la convenienza rimane, seppure ridotta, perché io prima di venire a parlare con voi ho fatto due calcoli e secondo me mediamente il maggior costo è di circa 200-300 euro l'anno, sì. Quindi rispetto al GPL e rispetto al gasolio c'è ancora uno spazio. Quello che non c'è più, e questo è il problema, è che il pellet stava progressivamente anche insidiando il gas metano, e quindi questo aumento praticamente annulla questa prospettiva di sviluppo. Questo è il punto, perché dove non c'è il gas metano è chiaro che rimane ancora conveniente il pellet, nonostante che costi di più, ma si è impedito un ulteriore sviluppo che, come diceva il rappresentante di CNA, è molto importante, perché dà anche sostiene una filiera che va anche all'agricoltura, alla manutenzione dei boschi, le potature, eccetera, eccetera, che oggi vengono bruciate o abbandonate nel sottobosco. Questo è importante. E invece si è voluto tronciare questa cosa. Noi faremo di tutto, cercheremo anche di metterci d'accordo con l'associazione degli installatori e certo. con l'associazione dei produttori di termostufe per vedere di fare un'azione congiunta e far cambiare questa decisione sciagurata. E tra l'altro, Pozzoni, per installare una stufa a pellet, una termostufa, che tipo di professionalità è necessaria? Perché proprio a proposito di situazioni che poi compromettono l'andamento e lo sviluppo di determinati settori, magari anche all'interno delle vostre organizzazioni cominciavano ad esserci professionalità specializzate che a questo punto magari potranno o dovranno un po' rivedere anche, no, le loro prestazioni professionali, se queste, adesso non dico che ci sarà una riduzione drastica delle installazioni di pellet nelle nostre abitazioni, però magari anche una persona che voleva specializzarsi in questo adesso ci può anche ripensare. Lei che dice, se il trend cambia radicalmente? No, magari io no. Non sarei così drastico, perché no, tutte le cose, come sappiamo bene, in Italia sono bolle che ci sono in questo momento perché praticamente la notizia è fresca, poi fra 10 giorni comincia a scemare e praticamente ci dimentichiamo dell'aumento e continuiamo a proseguire. Questo io ho qualche anno, l'ho visto da quando la benzina, faccio un po' un ritorso, quando la benzina costava poche lire e adesso costa 2 euro, no? Sì. Ecco, quindi però le macchine non si sono fermate di sulle strade. No, sì, diciamo che ne vendiamo molte meno, ma per altri problemi, esatto. Forse non per il carbone. Diciamo che l'installazione di una stufa pellet deve seguire sempre la procedura dell'installazione di qualunque componente che abbia una fiamma libera, quindi praticamente una caldaia e via di seguito, quindi praticamente deve sempre sottostare al DM3708, quindi praticamente occorre sempre richiedere la professionalità di un operatore che abbia questi requisiti. Certamente. Ultimamente è ancora in discussione, perché praticamente era uscita il decreto legislativo 28 nel 2011 sulle FER, fonti energetiche rinnovabili, per l'installazione proprio delle biomasse, del fotovoltaico e delle pompe di calore, che è un po' ferma, perché praticamente è ferma sulla formazione, come fare la formazione degli operatori che dovrebbero eseguire questa operazione. Allora, intanto un ascoltatore ci fa una precisazione: specificate che non è aumentato il costo ma la tassazione, ma ci mancherebbe, lo stiamo dicendo dall'inizio che parliamo di IVA, nello specifico appunto sul pellet, quindi proprio sul carburante, chiamiamolo così, sul combustibile appunto a segatura che alimenta le termostufe, per cui guardi, lo stiamo dicendo dall'inizio, probabilmente ha preso una parte finale della trasmissione in cui io ho utilizzato un termine improprio, come mi capita spesso. Nel frattempo, invece, in maniera molto propria, andiamo a sentire cosa sta succedendo sulle strade italiane. Cuore e denari. Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Nei giorni di festa il freddo si è fatto sentire, abbiamo visto anche le località di mare imbiancate. C'è da dire che poi invece in questi primi giorni del 2015 si sono fatte sentire anche inaspettate temperature primaverili. Abbiamo visto persino ieri anche alcune foto di chi ha fatto il bagno nel mare d'inverno. In ogni caso, con questo meteo un po' pazzerello, a molti italiani potrebbe essere venuta voglia di investire con un impianto di riscaldamento, e forse qualcuno aveva pensato proprio al pellet. Purtroppo però l'IVA su questo combustibile, che prima poteva proprio spiccare per convenienza, è aumentata, passando dal 10 al 22%, e molti di voi ci stanno raccontando quanto spenderanno in più quest'anno per alimentare le proprie termostufe. Il governo peraltro A parte la necessità di fare un po' di casa, ha spiegato che l'intervento si è reso necessario anche per equiparare l'IVA a livelli europei. In Europa, per quanto riguarda l'IVA sul pellet, la situazione è molto diversificata. Qualche esempio: la Germania è al 7%, quindi non si capisce bene cosa abbiano equiparato. In Inghilterra al 5%, come in Francia, in Austria al 10%, noi la portiamo al 22%. Pozzoni, ma mi son persa io? Qualche paese europeo dove la fiscalità sul pellet è al 22%, che cosa vuol dire renderla omogenea rispetto al resto d'Europa? Ma quello che lei ha detto, praticamente di omogeneo non c'è niente, quindi praticamente, ma io, lei prima ha detto che praticamente per San Male si fa peccato, ma però, a volte ci si indovina, e praticamente il Isolani dei consumatori diceva praticamente che l'installazione delle caldaie a pellet certamente penalizza un po' gli altri combustibili fossili. Se facciamo presente anche una cosa, che praticamente un'azienda distributrice di energia elettrica sta facendo una pubblicità sulle caldaie a condensazione molto, molto pesante sul territorio, che oltretutto penalizza gli operatori del settore, ecco, che praticamente sta facendo un lavoro post-contatore, che praticamente è una disquisizione molto che noi stiamo portando avanti da anni. Praticamente l'entrata in vigore del pellet, dove lei non può entrare, praticamente certamente gli dà fastidio. Insomma, ci sarebbero disegni diversi rispetto a quelli... Si fa peccato, ma forse ci si può anche rispetto indovinare. A quelli ufficiali, appunto, annunciati dal governo. È chiaro che gli operatori del settore leggono molto altro rispetto, appunto, delle decisioni che invece noi comuni mortali possiamo, appunto, interpretare in maniera solo superficiale. Ancora un paio di ascoltatori, perché sono contenta che stiate chiamando questa mattina, perché, appunto, come vi raccontavo anche all'inizio, non avevamo colto l'importanza e la portata di una novità di questo tipo, se non fosse che invece ce l'avete segnalata voi, scrivendoci tantissimo sul nostro social network, su Facebook, segnalandolo a Focus Economia, e quindi abbiamo ritenuto di fare un punto della situazione su questo pellet, sull'importanza di una combustibile di questo tipo e su quante famiglie hanno fatto questa scelta anche all'insegna dell'ecologia negli ultimi anni, a questo punto quanto il loro risparmio verrà vanificato alla luce dell'inasprimento fiscale sull'IVA, appunto. Sentiamo Settimio da Rieti. Settimio, benvenuto, buon anno. Buongiorno, buon anno e grazie per avermi richiamato. Ci dica. Mi consenta innanzitutto un apprezzamento per la sua trasmissione, per il garbo, la puntualità, grazie, l'obiettività sua nell'affrontare i temi, che di questi tempi è molto difficile, soprattutto nei conflitti di interessi che si riscontrano da tutti. Io sono un consumatore, nel frattempo in famiglia abbiamo fatto una serie di valutazioni. E avendo già un GPL, noi abitiamo in campagna, quindi non c'è la rete di metano che ci collega direttamente in casa il gas, quindi abbiamo pensato di affrontare l'investimento sulla stufa a pellet, un investimento che alla luce dei fatti, senza considerare questo aumento dell'IVA, comunque vede un punto di pareggio tra circa 7 anni, perché comunque va considerato il costo della stufa, che non è irrilevante, e tutti i lavori in casa che sono di varia natura. Ah sì, certo, perché non è che uno prende, compra la stufa, l'appoggia lì e la alimenta. No, esatto, assolutamente bisogna... no, il collegamento all'impianto idraulico, lo stoccaggio del pellet, lo spazio in magazzino, eccetera eccetera. Quanto le è costato tutto questo, Settimio, ma guardi, se posso chiederle? Nel nostro piccolo, nell'economia della famiglia è costato un bel po', perché ci ha costato circa 7.000 euro. La caldaia 4.000 euro, i lavori idraulici, i lavori in muratura, il collaudo, eccetera. E poi un'altra sorpresa, che il pellet comunque ha degli impegni quotidiani di polizia. Esattamente. È apprezzabile la proposta del fornitore di pellet nel fare lo stoccaggio lui, però in una famiglia lo stoccaggio preventivo è difficile da fare, perché bisogna avere spazio in magazzino, e poi c'è il rischio dell'umidità, perché l'umidità sgretola il pellet, esatto, e lo rende vano. Infatti gliel'avevo chiesto prima. Ecco, questa è una cosa. L'altra cosa è una considerazione che va fatta anche a livello governativo. Perché? Perché questo aumento comunque porta a delle valutazioni che vanno oltre l'analisi puramente economica dell'aumento dell'accisa, perché impatta anche in temi prettamente politici, perché aggredisce una classe di popolazione che la classe che sta attenta, esattamente, deve risparmiare, quindi porta a tutta una serie di valutazioni. E quindi il mio intervento, e vi ringrazio per avermi chiamato, e soprattutto per esprimere a lei i complimenti per la chiarezza e l'analisi a 360 gradi che consente a noi affezionati ascoltatori. Quindi bravo a lei. Settimio, grazie, mi fa davvero un bel regalo di buon anno, una bella spinta anche a far sempre nello stesso modo. Io estendo anche a Nicoletta Carbone, che si impegna moltissimo anche nella divulgazione delle tematiche scientifiche che sono molto complesse, anche tradurre dal medichese a vantaggio dei cittadini appunto non è facile, per cui mi permetto di estenderlo anche a Nicoletta, il complimento, perché lavora moltissimo, quindi grazie molte. Detto questo, ritorniamo al nostro pellet, gli ultimi 4 minuti di tempo dedicati appunto ai nostri ascoltatori, che abbiamo capito molto bene come la pensano, i conti l'hanno già fatti, hanno già capito come potranno continuare ovviamente ad utilizzare questa termostufa, cercando di fare in modo che l'impatto dall'aggravio fiscale sia il più contenuto possibile, e però insomma le conseguenze ci sono, e sono soprattutto, questo è un bel commento fatto da Timio, di natura tra virgolette politica, perché è il ceto medio-basso che va ad essere colpito da questa novità fiscale, perché sono soprattutto determinate famiglie che utilizzano un riscaldamento di questo genere. Sentirei Valerio da Vicenza per poi concludere con l'ultimo commento con Isolani e Pozzoni. Valerio, benvenuto. Buongiorno a tutti e complimenti. Io ho una stufa a pellet e il mio risparmio anno sul gas si avvicinava ai 1000 euro. Però c'è un'altra cosa da inserire nel contesto di queste spese, di queste cose. Mi è successo di assistere a una conversazione tra un trasportatore di pellet dal gommista, che diceva che si stanno trasferendo, stanno portando entro la fine dell'anno tutti i macchinari in Croazia. A causa di questo aumento, perché anche a loro aumenterà un po' tutto, anche i loro costi, perché cioè, il 22% che paghiamo noi è la fine in pratica di questo meccanismo, ma sarà aumentato tutto. Infatti, che le devo dire, aspetti toccati appunto anche da Pieraldo Isolani e Pozzoni prima, il calo del consumo di pellet avrà evidentemente delle conseguenze su tutto il mercato di prodotti made in Italy che il paese appunto stava sostenendo. Leggo due righe che mi ero preparata. Le aziende produttrici italiane di stufe e macchinari alimentati con il pellet registra oggi peraltro anche un'esportazione del 35% della loro produzione in Europa e l'America del Nord, magari, che ne so, forse proveranno ad aumentare quanto esportano più che rivolgersi prevalentemente al mercato domestico. Però dobbiamo anche ricordare, Isolani, non l'abbiamo fatto fino a questo momento, ma è un aspetto non trascurabile, che per chi aveva installato, come ha fatto per esempio Settimio, la stufa a pellet, poteva anche avvantaggiarsi da un altro punto di vista fiscale, perché è un lavoro di riqualificazione energetica che lo Stato rimborsa. Fino all'anno scorso rimborsava il 65%, da quest'anno al 50%, però insomma lo Stato restituisce la metà, e quindi era un investimento estremamente importante anche da questo punto di vista. Isolani. Assolutamente. Cioè, andiamo proprio controcorrente, non so come spiegarmi, guardi. Ma più chiaro di così non si può. Appunto, addirittura vorrei far notare un'altra cosa, che l'IVA al 22% sul pellet è maggiore a quella sul gas, perché l'IVA sul gas per i primi 480 metri cubi consumati ogni anno, l'IVA è al 10%, e solo sui metri cubi consumati oltre i 480 che si va al 22%. Quindi l'aver fatto l'IVA al 22% sui pellet è ancora maggiore di quella che è la tassazione dell'IVA sul gas. Quindi siamo veramente proprio contro. Andiamo tra l'altro, guardi, ogni logica. Isolani, un ascoltatore ha fatto questo calcolo: se la Francia ha il 5%, l'Inghilterra pure e l'Austria pure e la Germania il 7%, se sommiamo tutti i paesi facciamo 22%, e questo è il motivo per cui l'Italia si è uniformata, ha sommato praticamente le tassazioni negli altri paesi. Pozzoni, andrei verso la chiusura con lei, come installatori, non lo so, ha lanciato questa proposta prima Isolani di questa iniziativa magari che vi veda tutti insieme, no? nel cercare di portare in qualche palazzo romano questa battaglia. Adesso io non so quanto potrebbe essere possibile fare un dietrofront, ma dal 10 al 22% quantomeno poteva esserci anche un inasprimento un pochino più a scalare, più leggero, più graduale, non lo so, sempre contemplando questa clausola di salvaguardia. La farete? Perché non fate una, la fate un'iniziativa con le associazioni dei consumatori? Me la fate questa promessa oggi da Radio 24? Ma guardi, lei sta sfondando una porta aperta, perché io sono uno di quelli che vede sempre di collaborare sia con i miei colleghi che fanno lo stesso lavoro, le altre associazioni, ma anche con altre associazioni che magari a volte sono concorrenziali, perché praticamente mettono in difficoltà con le loro richieste. Però praticamente quando dobbiamo fare una battaglia bisogna essere uniti. Sì. E però praticamente una cosa che mi dispiace sempre è che dobbiamo sempre rincorrere e mai arrivare prima a queste problematiche. D'altronde qua forse, a parte che se ne discute da qualche mese di questa faccenda, perché appunto ribadisco, i nostri ascoltatori ce la stanno segnalando da molto. Detto questo, non so come sarebbe stato possibile fermarla. Qua ci vogliono delle lobby molto forti per ostacolare l'attività di governo quando questa non va bene, però forse la vostra non è sufficientemente forte, ma può diventarla. Io ringrazio i nostri ospiti di oggi, Pieraldo Isolani dell'Unione Nazionale Consumatori e Franco Pozzoni, vicepresidente nazionale CNA Installatori. Chissà che non torniamo presto a parlare di questo tema, poi di questo tema tra poco parleremo invece della calza della Befana. Cuore e denari. Con la Befana che in che rapporti sei? Col ricordo in della che senso la Befana in che rapporti? Volevo dire il ricordo della Befana nei tuoi confronti, com'è? Come lo ricordi quando eri ragazzo? Come ricordo è tragico, amica Befana. Sì. Non sono mai avuto d'accordo. Perché? Mai, ma guarda una cosa. Perché io tenevo a mio padre, mo è pensionato, no, che lavora in dei ferrovie dello Stato. A ferrovie dello Stato? Era capotreno di ferrovie. E allora io avevo la Befana di ferrovie. Mm. Si può immaginare che Befana aveva, no? Io. Ogni anno un trenino elettrico. Ma era questa fantasia che tenevano, guarda. A Massimo Troisi, che abbiamo risentito in questa intervista, la Befana portava sempre solo trenini elettrici. Peraltro casualmente avevamo preparato questo brano, questo intervento appunto di Troisi, e stamattina calza anche a pennello questo stralcio di questa sua PS, perché era un grande amico di Pino Daniele, mancato tanti anni fa per stesso problema di un cuore malandato. E come ho ricordato anche all'inizio, certamente nei prossimi giorni torneremo con Nicoletta Carbone a parlare di questi cuori che così un po' abbandonano il corpo un po' troppo presto, come nel caso di Troisi, come nel caso di Pino Daniele di Mango qualche giorno fa, insomma. Ma noi torniamo alla nostra calza della Befana. A voi cosa portava peraltro la Befana? Non lo so, così un po' pensando a questa immagine, che cosa evoca in voi, nei vostri ricordi d'infanzia? Qual è la Befana, il regalo più originale che vi ha portato anche nella vostra infanzia, o magari non nella vostra infanzia, anche magari un pochino da adulti? 800 24 00 24 per raccontarcelo. Cosa ci metterete oggi? Cosa ci mettereste se potreste? Scrivetecelo anche al 349-238-6666 su Facebook o su Twitter. In questa seconda parte vogliamo preparare insieme una calza della Befana alla Cuore e Denari, che unisca ingredienti e prodotti genuini, stando però attenti al portafoglio, ma anche un po' alla gola. Dai, che possiamo ancora fare un piccolo strappo alla regola, e poi da domani, promesso, ci rimettiamo in riga, anzi dal 7. Dottoressa Sara Farnetti, medico internista e nutrizionista, ancora domani abbiamo tempo per questo rush finale per il nostro stomaco, il fegato e non solo, per la gola. Buongiorno in tanti. Buongiorno. E buon anno. Buongiorno. Eccoci qua. Nicola su Twitter, un po' provocatorio, scrive: nella calza ci metterei i soldi degli evasori fiscali per poi distribuirli a chi ne ha veramente bisogno, pensionati e disoccupati. Certo che a noi tutti piacerebbe che nella calza si trovasse un po' più di giustizia sociale. Accontentiamoci intanto, dottoressa, dei dolci, no? Un po' di dolcezza, ma con furbizia, come siamo soliti proporre. Sento un po', intanto per la mia gola malandata dall'inizio dell'anno, secondo lei ci devo mettere qualcosa di particolare, un alimento che possa fungere un pochino da balsamo? balsamico per la gola che sta mollando. Abbiamo per te il nostro zenzero. Certo è candito, certo è zuccherino, però in questo caso te lo meriti, perché lo zenzero riesce a decongestionare le vie nasali, quindi a portata di mano il fazzoletto, ma almeno soffiando poi il naso potrai stare subito meglio. Potremmo mettere del peperoncino, certo nella calza forse è meglio mettere qualcosa di più dolce, esatto, piuttosto di qualcosa di troppo piccante. Allora andiamo a riempirla questa calza, zenzero e peperoncino, abbiamo dato due prime indicazioni soprattutto perché ha qualche malanno di stagione, ma quali sono gli ingredienti, dottoressa, che non possono mancare in una calza con la C maiuscola? Poi vediamo se è per adulti o per bambini, ma in termini generali cosa non deve mai mancare? Il dolciume, la calza è dolce, la calza è piacevole per quello, però dicevamo scegliamoli con un criterio, attenzione a questi zuccheri, ne abbiamo abusato, quindi almeno limitiamo i danni. Per esempio, vogliamo qualcosa di dolce, prendiamo delle mandorle caramellate piuttosto che delle caramelle, almeno la mandorla mitiga un po' lo zucchero che stiamo mangiando, oppure il cioccolato, ne parleremo, il cioccolato non può mancare, ma quale cioccolato? Ecco, spostiamoci sopra il 50%, mettiamoci dall'altra parte della bilancia, più cacao e meno zucchero, quindi dolce sì, ma con intelligenza, cercando di limitare i danni. Tra l'altro, a proposito del cioccolato, un'ascoltatrice, Giuseppina da Modena, ci ha scritto non appena abbiamo iniziato la trasmissione stamattina, quando avevo già preannunciato che avremmo fatto dalle 12 questo approfondimento. Giuseppina, credo che abbia sbagliato un pochino traiettoria, se ho capito bene i suggerimenti che lei ci ha dato, perché ci scrive: sto proprio per uscire di casa per comprare cioccolato bianco al latte con nocciole per mia figlia Ada. Nostra amica sta comprando zucchero. Ecco. Allora è inutile, mettiamo piuttosto allora delle zollette di zucchero. Invece no, la nostra amica deve andare a cercare il cioccolato fondente, che non è vero che non piace ai bambini, perché se ai bambini proponiamo il cioccolato vicino ad esempio a degli arachidi o degli anacardi o delle mandorle, lo apprezzano molto e forse anche si abituano a un cibo amico. Quindi cioccolato, abbiamo detto, superiore al 50%, e per gli adulti che devono recuperare, cioccolato sopra l'85%, che è gradevole, buonissimo e contiene al massimo il 20% di zucchero. Però visto che le mandorle e le nocciole le promuovete, dottoressa Farnetti, il cioccolato nocciolato perché proprio non la convince fino in fondo? Io direi facciamocelo in casa, ecco, potremmo inventare questo gioco per i bambini, mettiamo nella calza delle mandorle, mettiamo nella calza delle nocciole, delle noci, dei pinoli e poi del cioccolato, dopo la festa di aprire la calzetta proponiamo un gioco, mettiamoci ai fornelli, prendendo una bolla di vetro mettiamoci il cioccolato dentro, sciolto a bagnomaria, e i nostri semi, e poi facciamo dei dolcetti, quello è il vero cioccolato, perché i nostri semi non sono cotti ma sono soltanto riscaldati da un cioccolato a temperatura bassa. Perché a bagnomaria, e soprattutto siamo sicuri della qualità dei semi che abbiamo preso, non tostati e non salati, e siamo sicuri della quantità di cacao del cioccolato che scegliamo, perché tutti i cioccolati che contengono, o almeno la maggior parte che contengono frutta secca, hanno una quantità di cacao che sicuramente è inferiore all'80%, di solito al massimo sono al 70%. Noi dobbiamo cercare invece di mixare due alimenti amici, certo, che sono pochi zuccheri, la frutta secca ricchissima di minerali e soprattutto in grado di mitigare tutto quello che abbiamo fatto in queste vacanze, perché la frutta secca ci toglie la fame, ma ci regala ancora qualche sapore, no? Buono, gradevole, ci ricorda ancora quello che abbiamo fatto, gli stravizi, però ci fa del bene. Quindi cioccolato e frutta secca sono amici, ma facciamoli in casa. Naturalmente potremmo anche sbizzarrirci quest'anno a fare una calza del tutto originale, mettendo esclusivamente frutta in questo momento. Il mandarino è il grande protagonista della stagione, no, dottoressa? Esatto, Farnetti. Si metteva il mandarino e si mettevano anche le noci in guscio prima per ridurre le cose da mettere, quindi voglio dire cibi poveri, insomma, via, per occupare spazio. Invece sono i cibi che oggi dovremmo preferire, non troppi mandarini, io direi più noci e nocciole con il guscio, perché ricordiamoci che la frutta secca, il miglior contenitore per la frutta secca è proprio il guscio, quindi mettiamo frutta secca in guscio, pensiamo quanto può essere bello mettere il mandolino, la mandorla, no? che ormai i bambini non sanno più, ma nemmeno gli adulti, da dove viene la mandorla, e magari ecco, poi mettiamo qualche mandarino, esatto. Poi se ci volessimo sbizzarrire con altri piccoli frutti del momento, beh, quella è a fantasia. Quindi dolciumi sì, poi la frutta secca, un po' di frutta, un po' di zenzero candito e poi l'ultimo amico, l'ultimo diciamo amico della Befana, ma no, di chi è stato un po' cattivo, beh, diciamo lei, il carbone. Mi aspetti lì perché sul carbone adesso ci andiamo, intanto le leggo qualche messaggio. Ci metterei solo il cioccolato, ci dice Ivana, lo amo tantissimo, e poi caramelle a frutta e menta, ci dice Ivana, quindi ha trovato anche un ingrediente un po' diverso per personalizzare un po' la sua calza della Befana. A proposito di caramelle, sono probabilmente anche quelle che attraggono molto, no? I bambini, molto colorate, ma anche lì effettivamente l'incetta di zucchero poi è esagerata. Dobbiamo fare una scelta precisa sulle caramelle, dottoressa Farnetti? Possiamo fare una scelta di qualità, perché quando facciamo una scelta di qualità il nostro corpo ringrazia. Qualità che vuol dire caramelle meno sono colorate, meglio è, perché i coloranti addirittura sembra che peggiorino l'iperreattività dei bambini. I coloranti non fanno bene, sono tutti coloranti comunque artificiali nella maggior parte dei casi, quindi la caramella dovrebbe essere meno colorata. Leggiamo gli ingredienti: leggere zucchero, leggere saccarosio o leggere sciroppo di glucosio è diverso, quindi le caramelle dovrebbero al massimo contenere, ecco, dello zucchero, del miele, dello zucchero di canna integrale, insomma scegliamole con attenzione, perché una caramella non vale l'altra, soprattutto per i nostri bambini. Attenzione agli zuccheri, ci sono quelli più veloci che fanno correre i nostri ormoni, quelli che non devono correre tipo l'insulina, e quelli che insomma la stimolano un po' meno. Quindi anche la qualità delle caramelle, nella qualità degli zuccheri usati e nella quantità, non dovrebbero esserci dei coloranti, beh insomma è importante fare la differenza. 800 24 00 24, se volete condividere con noi la vostra personalissima calza della Befana, raccontateci un po' come intendete comporla questa sera, con quale tipo di dolciume, perché naturalmente non è una vera calza della Befana se non ci sono dentro i dolci. Adesso parleremo anche del carbone, di che cosa è fatto, ci sono anche i marshmallow, adesso non so neanche se l'ho pronunciato correttamente, però ci sono questi dolci un po' moderni, perché io, dottoressa Farnetti, non so lei, ma non mi ricordo di averne mai consumati nella mia infanzia, ma adesso a quanto pare troviamo anche questi. Un ascoltatore ci prende un po' in giro e dice: ma sì, insomma, lo fate talmente salutistico che perché non ci mettete dentro crackers e fette biscottate? Perché no? Un buon pane, magari un pezzettino di pane, tanto anche per insegnare magari qualche cosa ai nostri bambini, potrebbe essere divertente. Un altro ascoltatore invece, tra quelli a cui ho chiesto di raccontarci che cosa c'era nella calza della sua infanzia, l'ascoltatore ci racconta che c'era la pistola giocattolo, un classico naturalmente dei regali natalizi, soprattutto per i maschietti, e ci giocavo a fare delle sparatorie con i miei amici, ma naturalmente nessuno così crescendo ricorda di aver particolarmente apprezzato questo gioco. Non è che siamo diventati poi chissà dei delinquenti, dice lui. Insomma, andiamo al carbone, dottoressa Farnetti. Allora, questo composto nero che troviamo spesso nelle calze, di che cosa è fatto? Zucchero, ma che cosa riesce a renderlo nero? Insomma, viene colorato lo zucchero? Ci dia un po' qualche caratteristica di questo prodotto. Ovviamente viene colorato, e ovviamente lo zucchero non è di alta qualità, perché è più un gioco il carbone, e va bene, è un bel messaggio, no? Per i nostri bambini, ma anche per gli adulti, in fondo tutti noi siamo stati un po' birichini, però nonostante questo il messaggio è: ti gratifico perché ti accolgo. Quindi un bel messaggio il carbone, ma io lo terrei nella calzetto, lo lascerei sul comodino piuttosto, per ricordarci di essere un po' più buoni quest'anno e un po' più generosi, ma non lo mangerei, perché il carbone, ahimè, nessuno lo fa di qualità per farlo. Il carbone è un simbolo, quindi cerchiamo di non mangiarlo, mettiamolo in questa calzetta, ma lasciamolo lì da parte. In fondo non conosciamo la qualità degli zuccheri usati, non conosciamo la qualità, il tipo di colorante usato per renderlo marrone. Potremmo fare un carbone, diciamo, sano, il carbone vegetale, adesso ci fanno anche il pane con il carbone vegetale, potrebbe essere un'idea questa, di mettere nella calzetta, va di moda adesso il pane fatto con un pizzico di carbone vegetale che tutto sommato è naturale e diventa nero. Ecco, potrebbe essere meno zuccherino del carbone, quindi il pane al carbone vegetale sembra proprio un pezzetto di un carbone ardente, no? È spento naturalmente, come i carboncini, tutti i pezzettini, però in realtà potremmo utilizzare, dicevo, un colorante naturale che è quello del carbone vegetale nero, ma quando compriamo così dove capita le calzette non lo sappiamo, quindi io ai nostri bambini un colorante sconosciuto e certo, dello zucchero di cattiva qualità lascerei perdere. Mettiamolo, ma magari ecco, poi lasciamolo sul comodino e non lo mangiamo, ci deve ricordare che dobbiamo essere solo un poco più buoni. Esattamente, tra l'altro diciamolo pure poi dottoressa Farnetti, anche se mettiamo questo pezzo di carbone con un intento tra virgolette educativo per i bambini, no? Come a dire non sei stato troppo buono, vedi che la Befana ha portato il carbone, no? Perché devi comportarti meglio, altrimenti ci sarebbero stati solo dolci, se è dolce non ci crede più nessuno, neanche appunto, che sia un po' una punizione, per cui insomma, però abbiamo capito un po' meglio le caratteristiche tra virgolette nutrizionali, che tanto nutrizionali non sono, di questo carboncino nero appunto allo zucchero che troviamo nella calza della Befana. Sentirei Eugenia da Genova per il suo racconto su che cosa le porta la Befana, se ha già preparato la calza, se se ne aspetta che la Befana gliela porti naturalmente. Eugenia, benvenuta. E buon anno. Pronto, naturalmente. Buongiorno. Eccoci. Volevo dire che la Befana mi ha sempre portato, anche il prossimo anno che passerà, un anno in più, perché io sono nata il 6 gennaio. Ah, ecco. E quindi, Eugenia, per lei doppio festeggiamento, perché eccoci qua, infatti i ragazzi mi mettono... Ha sentito Filippo Aureggi, che è il nostro DJ preferito, ha sempre l'accompagnamento musicale adeguato per i nostri ascoltatori. Eugenia, ma a nipotini... A nipotini o figli piccoli, mi scusi, cioè nel senso che intendevo. Sì, ho un figlio grande, ma nipotini non ancora. E lei ha mai preparato una calza? Sì, sempre, la calza l'ho preparata, però per me mai, non è mai stata preparata per me. Perché essendo vissuti in campagna, eravamo poveri, e qualche mandarino e basta per il giorno della Befana. Qualche mandarino e basta, però insomma questa poi è una bella tradizione che i nutrizionisti auspicano che si mantenga. Eugenia, grazie e doppi, tripli, quadrupli auguri per lei naturalmente, perché anche il suo compleanno. Tra l'altro, dottoressa Farnetti, Eugenia diceva vivevamo in campagna e c'erano solo mandarini, e diciamo anche che in passato le calze venivano fatte con le calze vere e proprie, non con quelle tutte colorate che vediamo adesso. Con della frutta secca, ecco. Perché noi dobbiamo, quando parliamo di frutta secca, dobbiamo... puntualizzare la frutta secca oleosa, ne abbiamo parlato prima, mandorle, i pistacchi, i pinoli, le noci eccetera, e la frutta secca disidratata, che è quella appunto tipo l'albicocche, le pacche secche, le mele secche che venivano messe nelle calze perché la frutta sugli alberi ormai non c'era più, quindi c'era questo tipo di frutta. Allora diamo un messaggio chiaro: dopo gli eccessi delle feste, delle festività in generale, dove abbiamo abusato di zuccheri, cerchiamo di preferire la frutta secca oleosa, non tostata e non salata, quindi mandorle, pistacchi, pinoli, alla frutta secca disidratata, tipo albicocche secche, prugne secche, che possono essere nella calza. Perché? Perché la frutta secca disidratata contiene molti zuccheri concentrati, per quanto abbia degli effetti benefici, anche se ha perso poi, diciamolo, molte delle vitamine termolabili, tipo la vitamina C, però ovviamente quello che ci interessa ora non sono le vitamine, è il quantitativo di zuccheri, quindi certo, preferiamo dopo le festività una mandorla in più piuttosto che un'albicocca secca o il mandarino. A contenuto calorico, dottoressa Farnetti, con la frutta secca come siamo messi? Perché siamo messi male, lo sappiamo, è molto alto, ma attenzione, finiamola di pensare solo alle calorie. Dobbiamo pensare al messaggio che i nostri geni, i nostri ormoni vogliono ricevere, perché quando mangiamo tante calorie buone di cibi amici non produciamo ormoni che ci fanno ingrassare e ammalare, vedi l'insulina. Se mangiamo calorie anche un po' meno ma di zuccheri produciamo tanta insulina, che è l'ormone che poi ci fa ingrassare e, ahimè, fa depositare quel grasso laddove non deve essere, esatto, quello viscerale. Quindi attenzione, le calorie è un dato, non dobbiamo fissarci sulle calorie, cioè tenere presente solo quello, ma dobbiamo sempre pensare al destino metabolico degli alimenti che stiamo mangiando. Quindi meglio un po' di frutta secca. Non abbiamo detto, per i bambini molto divertente sono le arachidi da rompere, esatto, mm-hmm, quelle da rompere, quindi non quelle già salate, esatto, pronte, quelle da aperitivo. Uno studio ha dimostrato che se noi prendiamo le noci, ovviamente poi è intuitivo, le noci, le mandorle, le noccioline da rompere, ci mettiamo del tempo per farlo e quindi mangiamo meno cibo, proprio perché, certo, siamo impegnati anche a elaborare il nostro cibo, no? Ce lo dobbiamo preparare, dobbiamo sgusciarli, quindi un po' meno pigri e un po' più attenti a quello che mangiamo. Allora, c'è un ascoltatore che scrive, forse stamattina vengo un po', sarà anche per la gola che sono in difficoltà, interpretata male nel tono con cui spiego le cose, ma volete mettere la gioia dei bambini nel trovare e mangiare il carbone nella calza, non ha prezzo, ma noi non abbiamo detto assolutamente niente di contrario rispetto a questo. Parlavamo proprio solo delle caratteristiche di questo prodotto che si può trovare nella calza, come viene fatto, naturalmente è proprio zucchero allo stato puro, perché è chiaramente un po' alterato nella sua produzione, non è carbone vegetale quello vero, dottoressa Farnetti? No, è il colorante, ecco, viene, esatto, usato il carbone vegetale per colorare, come ad oggi dicevo viene usato in certe preparazioni da forno per dare il colore nero a questa, la preparazione, con l'idea che poi ci tolga un po' di meteorismo, quindi ci, ecco, ti renda la pancia piatta. Visto che la Befana pensa tutto, esatto, persino anche agli effetti collaterali del mangiare troppi dolci. Dottoressa, i datteri e le carrube, ci scrivono ascoltatore. Ahimè, rientrano sempre nella frutta, diciamo, zuccherina, soprattutto i datteri. I datteri hanno molti zuccheri e diciamo si avvicinano nella curva di cessione di questa insulina di cui parlavamo, quasi allo zucchero, se non oltre. Oltre lo zucchero, anzi, quindi io li prescrivo ai miei sportivi, ad esempio, perché, ecco, sono un ottimo tonico prima dello sforzo fisico per recuperare velocemente, ma per noi che abbiamo un po' troppo abusato durante le festività, assolutamente evitiamo i datteri, perché i datteri non fanno altro che sostenere lo stimolo della fame, perché la fame adesso deve essere spenta. Noi abbiamo questo prima come obiettivo, spegnere la fame. Paradossalmente abbiamo mangiato tanto e abbiamo più fame, quindi, sì, per salvarci ora che cosa fare? O un grande atto di volontà, ma non tutti ce l'abbiamo perché riprendiamo il tantam, riduciamo gli zuccheri, perché sono gli zuccheri che stimolano e sostengono il senso di fame, certo, quindi carrube, la carruba e il dattero, meglio evitarli. C'è la famosa scusa, mi si è allargato lo stomaco mangiando. Non si allarga adesso lo stomaco, meno male, per è la gola, è la gola. Senta, la gola, sì. Ultima telefonata di Alberto da Brescia che ha un bel messaggio da dare e noi naturalmente lo prendiamo subito, ce lo vogliamo regalare e lo vogliamo regalare a tutti gli altri ascoltatori. Alberto, buongiorno, benvenuto, buon anno. Buongiorno, benvenuto a voi e buon anno a voi. Rapidissimo, grazie. Dunque, velocissimo, semplicemente non esistono bambini cattivi, esistono genitori cattivi. Che si meritano il carbone. Il carbone, datelo ai genitori e piantateli a chiamare cattivi bambini, perché sono i genitori che non crescono i bambini, certo, in modo adeguato. Tutto lì. Alberto, e allora quindi la Befana come deve comportarsi di conseguenza? Portare il carbone ai genitori che qualche volta, insomma, magari se la prendono con i bambini, che fanno quello che devono fare, il loro lavoro, i bambini naturalmente, crescere e quindi avere una guida, un accompagnamento corretto e magari anche una Befana generosa che metta nelle calze le cose giuste. Dottoressa Farnetti, io la ringrazio per essere stata con noi, buon anno anche a lei. Buon anno a voi, grazie. Grazie molte, con qualche piccolo strappo alle regole alimentari, però ogni tanto e senza abusare. Grazie a Marco Lombardo, Isotta Ascena per la collaborazione in redazione, a Pippo DJ, Filippo Aureggi in assistenza tecnica. Allora, per il vostro buon umore, io torno anche questa sera a Focus Economia, invece con Cuore e Denari ritorniamo domani, come sempre, in diretta alle 11. Buona giornata a tutti.